si interessano non tanto di me quanto di Sagari. E niente, vorrei dire, prima qualcuno mi ha chiesto, è la vecchia domanda, come si pronuncia il nome di questo romanziere, Salgari o Salgari? Allora, la pronuncia giusta è Salgari, perché essendo veneto, la famiglia originaria di Negrar Valpolicella, la pronuncia è, cioè, è Salgari e deriva dal vocabolo salice, che in veneto si chiama Salgari. Quindi non c'è dubbio che non è Salgari, ma è Salgari. Questo tanto per chiarire fin dall'inizio. Ora, mi sono fatto un paio di appunti, se no mi perdo subito. Volevo dire, questa sera probabilmente qualcuno si chiederà perché si continua a parlare e a scrivere di Salgari a oltre 100 anni dalla sua morte. Ma la risposta è molto semplice. Finalmente questo romanziere, amato da generazioni di ragazzi, ma snobbato a suo tempo dalla critica e avversato dal mondo della scuola, è stato finalmente rivalutato e gli viene riconosciuto il ruolo che gli spetta nella storia del costume italiano, oltre che nella letteratura popolare. Il senatore Giovanni Spadolini, in un suo saggio, lo ha definito uno dei profeti più lucidi e arditi del gusto contemporaneo, riconoscendogli il merito di aver contribuito a formare generazioni di italiani. Non sono pochi i poeti e scrittori famosi, e non solo italiani, soprattutto sudamericani, che oggi confessano di essere stati ispirati dai romanzi salgariani, e non si contano gli imitatori che si sono impadroniti dei suoi personaggi e inventando per loro nuove avventure. È un abuso, secondo me, però è anche un segno di grande popolarità. Nonostante gli interessi dei ragazzi oggi vadano in tutt'altre direzioni, è stato proposto ancora Salgari nelle scuole medie e è stato accolto volentieri dai ragazzi. Gli studenti hanno apprezzato le qualità fondamentali, cioè la straordinaria fantasia e le sorprendenti previsioni del romanziere, e non è un caso se ogni anno vengono presentate numerose tesi di laurea proprio dedicate a Salgari. Ora, che gli eroi salgariani siano ancora vivi nel cuore degli italiani lo si è visto in occasione della proiezione del filmato del Sandokan televisivo, del quale parlava la dottoressa prima. Ha scatenato un entusiasmo popolare che è stato paragonato a quello delle grandi partite di calcio, comunque tale da sorprendere, da dare una sorpresa a chi ricordava queste cose, e ha impegnato critici e sociologi nel tentativo di spiegare le origini di questa reazione. È stata coniata anche una nuova parola, la sandokanite, e ha impegnato appunto critici e sociologi nel tentativo di spiegare. Non hanno trovato la soluzione e la risposta, però hanno fatto un paragone con la stessa reazione che c'è stata nel lontano 1883 a Verona, quando Salgari, giovanissimo cronista alla Nuova Arena, è uscito con la prima puntata della Tigre della Malesia, che era sempre il Sandokan, e Salgari era allora collaboratore della Nuova Arena e dopo 2 anni è passato come giornalista fisso stipendiato alla storica Arena, dove è rimasto fino al 93, quando ha abbandonato il giornalismo per dedicarsi alla letteratura, si è trasferito a Torino, poi ha girato un po' per il Piemonte per poi ritornare a Torino, salvo un breve soggiorno a Genova tra il 98 e il 99, meno di un anno. Ecco, gli anni di giornalismo di Salgari sono molto interessanti per la sua formazione, perché aveva in mano molti giornali, anche stranieri. Lui non sapeva il tedesco, l'inglese, però sapeva bene il francese, tanto è vero che ha tradotto dei libri dal francese. Ecco, parlando di questo periodo, dai giornali dell'epoca ha tirato fuori un sacco di notizie riguardanti guerre, guerriglie, rivoluzioni, eccetera, e su questo ha costruito i suoi personaggi, le sue avventure. Ora, quando si parla di Salgari, ci sono ancora dei momenti della sua vita che non sono perfettamente chiari. Cioè non si sapeva, per esempio, ci sono dei mesi in cui non si sa dove era, se era a Venezia, se era a Verona, non c'è documentazione, quindi è rimasta in piedi ancora una piccola idea che forse qualche breve viaggio possa averlo compiuto. Per esempio c'è una lettera che io ho letto su una delle biografie in cui descrive talmente bene il Nilo che a me è venuta l'idea, ho detto qui deve esserci stato, non può non averlo visto. E allora penso che magari, non so, tra gli studi abbandonati a Venezia e l'arrivo a Verona alla nuova arena prima e all'arena dopo, in quei mesi magari qualche piccolo viaggio lo abbia compiuto a bordo di una nave che si chiamava Italia Una. Questa dovrebbe essere vera, anche se non si è riusciti a trovare la descrizione all'albo della nautica. Comunque si scrive e si parla di Salgari essendo stata sfatata, questa sì, la leggenda che lo voleva avventuroso capitano di mare e protagonista lui stesso delle avventure dei suoi eroi. E sparita anche l'altra versione che ne voleva fare un personaggio eccentrico che viveva isolato in un mondo tutto suo, fuori dalla realtà, mentre invece è stato dimostrato che era perfettamente inserito nella vita del suo tempo e seguiva con curiosità, non disgiunta da preoccupazione, i rapidi sviluppi della tecnica che agevolano sì la vita dell'uomo, ma ne minacciano anche la salute fisica e psichica. Sono sorprendenti, è una cosa che mi ha colpito molto, le sue previsioni fantascientifiche. Lui che non è assolutamente dedicato alla fantascienza perché è un romantico, ma invece ha colto determinate tendenze e ci ha riflettuto e se ne è preoccupato. Allora, nel romanzo Le meraviglie del 2000, che è uscito nel 1907, però scritto nel 1903 e proiettato al 2003, parla fra l'altro, adesso qui ne cito pochi, cibi surgelati, fast food, elettrosmog, pillole energetiche al posto del mangiare normale, pannelli solari che lui chiama, adesso mi ricordo più bene, insolatori o qualcosa del genere, perché chiaramente non usa i termini che abbiamo noi, non usa elettrosmog, però parla di inquinamento elettrico del suolo e dell'aria. E la cosa ultima, idrogeno come carburante, quello che stiamo sperimentando noi qui a Bolzano in certi autobus di una linea che non so che numero sia, però che dice non, io non inquino. Ecco, questo Salgari nel 1903, 1907 è uscito il libro, già lo usava, non lo usava sugli autobus perché forse non c'erano ancora, ma adesso ho perso il filo. Adesso arriva, ma ti lascio continuare che... No, no. Prego, prego, ti lascio continuare. Finisco, tanto aspettavo Roberto perché adesso proprio se appena arriva gli do la parola. Spero che racconti lui qualcosa della giovinezza del... Va bene, allora... No, no, ma adesso arriva... Eravamo fermi all'idrogeno come... Ecco, si dicevo, non c'erano gli autobus allora, c'erano i tram trainati dai cavalli, quindi idrogeno lo usavano però per gli aerostati. E qui e appunto diceva che poteva essere un nuovo mezzo come, da usare come carburante. Ecco, c'è un altro Salgari però, hanno ecco, altri motivi che anticipa. Per esempio, il problema della fame nel mondo, la pacifica invasione dei cinesi, la tutela degli animali a rischio di estinzione. Attenzione, qui è una cosa interessante, perché ai tempi di Salgari in India le tigri erano talmente tante da costituire un autentico pericolo per la popolazione delle giungle, ai margini della giungla. Allora il governo inglese ha chiamato degli speciali cacciatori, pagando loro un premio che andassero a uccidere queste bestie. E adesso quelle poche tigri che esistono sono super protette come delle divinità. Salgari era nell'epoca in cui abbondavano le tigri, eppure presentiva che a un certo momento bisognasse tutelarle. E non solo, addirittura anche altri animali che sarebbero stati distrutti, non solo le tigri. Mi abbia colpito la tigre perché è la più interessante, però anche altri animali. E non si sa come mai riuscisse a intuire queste cose. Ha previsto per esempio la nascita di nuovi stati, tra cui l'Ungheria e la Polonia, che ai suoi tempi non esistevano, quindi non si capisce come sia. Poi c'è un altro Salgari che pochi conoscono, ed è un Salgari assolutamente diverso, allegro, scapigliato, goliardico, un vero bohemien, organizzatore di memorabili scherzi. Il libro si chiama La Bohème Italiana, che prima veniva assolutamente non tenuto in conto, mentre invece è interessantissimo perché è una specie di autobiografia. E Salgari si presenta in due autoritratti, uno come scrittore e l'altro come pittore, e scrive di sé con bonaria ironia. La cosa sconvolgente, secondo me, è che questo libro esce nel 1909, è l'anno in cui Salgari ha compiuto il suo primo tentativo di suicidio. Sapete che è morto suicida nell'11, quindi 2 anni prima, questo era come fosse una prova generale. E in queste condizioni, appena uscito dalla morte che lo doveva averla ancora davanti a sé, riesce a scrivere questo libro brillante, da ridere, insomma, sorride di se stesso e fa sorridere anche gli altri. Oppure, io ho pensato anche a questo, che forse lo aveva già scritto prima e lo teneva nel cassetto, forse lui o forse l'editore non pensavano che diverso dai suoi classici potesse avere successo e l'hanno tirato fuori dopo, perché a me non sembra possibile che uno che ha appena visto la morte in faccia riesca a ridere di se stesso e fare ridere anche gli altri. Comunque questa è un'impressione mia. Ecco, fatta eccezione per la fantascienza di prima e la poema, che costituiscono 2 episodi isolati, Emilio Salgari è famoso per i suoi romanzi che tutti conosciamo, romantico-avventurosi, ambientati in paesi esotici. Ora ne ha scritti ben 83, più 2 che sono andati perduti, che però dei quali si conosce il titolo. E da pensare che i primi 10 anni che ha fatto il giornalista a Verona, fino al 97, di libri ne ha scritti soltanto 3. Quindi questi 85 romanzi sono nati nello spazio di 20 anni o poco più. Cioè un lavoro immenso, inimmaginabile. Non solo, c'è da aggiungere almeno un centinaio di novelle, che sono quelle più lunghe, quelle brevissime invece che scriveva per i bambini delle elementari, descrivendo fiori o animali rari, non sono citati fra questi 100, quindi sono ancora di più. Ecco, questi romanzi suoi sono quasi tutti ambientati in paesi esotici, perché la gente della popolazione di allora, che usciva appena dal provincialismo e cominciava ad aprire gli occhi sul mondo, desiderava chiaramente vedere qualcosa di nuovo, e Salgari lo sapeva descrivere molto bene. Ecco, adesso speravo che venisse Roberto Fioraso per raccontare un po' di come avveniva a suo tempo la scrittura dei romanzi salgariani, perché Salgari in origine, a parte il fatto che scriveva per persone adulte e non per ragazzi, e i ragazzi se ne sono impadroniti dopo, allora si spiega anche perché ci sono in alcuni punti delle scene piuttosto scabrose di torture, di violenza, di crudeltà. Ricordo che c'era una versione del Sandokan in cui si diceva, lui diceva orribile cosa, ma la descrive Sandokan, che beveva sangue umano e succiava le cervella dei nemici uccisi, cosa che naturalmente è stata poi cancellata quando i lettori sono diventati ragazzi, sono diventati adulti, scusate. Allora, Salgari scriveva, e adesso se non c'è Roberto lo devo dire io, scriveva a puntate per giornali locali. Non scriveva sull'Arena, stranamente, dove era redattore fisso, perché l'Arena aveva un contratto con un'agenzia che forniva questi racconti, e Salgari invece però era libero di scrivere su altri quotidiani locali, e così è stato. E da una puntata all'altra, per esempio il Sandokan, ho notato qua, è uscito in 150 puntate. Nell'anno è cominciato nell'ottobre dell'83, quindi è chiaro che non avendo la lettura completa ci sono anche state delle inesattezze, fra cui nomi di personaggi che cambiano da un capitolo all'altro, o non so, una protagonista che un giorno ha i capelli biondi e dopo 3 settimane li ha castani, ecco. E non sempre Salgari aveva il tempo o forse neanche la voglia di rileggersi tutto quanto, e non tutte i suoi racconti sono stati raccolti in volume. Per esempio il famoso Sandokan dall'83, che è uscito sulla Nuova Arena a puntate, ha atteso 7 anni prima di poter essere raccolto in un libro, perché succedeva questo: la gente leggeva le puntate varie, e quando un editore lo vedeva, un romanzo che gli piaceva, faceva raccogliere le varie puntate e pubblicava un libro, e andava su così com'era. Evidentemente nessuno lo fa, non tutti sono stati riletti e non tutti sono stati scritti in questa maniera, però i romanzi giovanili erano in queste condizioni, ecco perché poi dicono Salgari era un facilone, lo correggeva eccetera. Lui correggeva, ma non sempre aveva il tempo e la possibilità. Ecco, beh, io vado avanti, sì vado avanti. Hai parlato un po' di Emilio Salgari uomo, sì? Bah, no, non tanto. Adesso volevo dire come e da dove prendeva l'ispirazione per i... Allora, dove prendeva l'ispirazione per i suoi romanzi? Preferiva costruire le avventure dei personaggi su uno scenario esotico come desiderava il suo pubblico, spaziando dall'India all'Australia, dalla Malesia ai deserti africani, dai Caraibi al Far West, senza dimenticare l'America del Nord e la Russia. Da ex giornalista era molto attento agli eventi extraeuropei. Tra guerriglia, insurrezioni e spedizioni scientifiche c'era solo l'imbarazzo della scelta. Così nei suoi romanzi ci troviamo nel bel mezzo della guerra, per esempio la guerra russo-giapponese del 904-905, la guerra santa del Mali nel Sudan, che è durata 11 anni dall'85 al 96, la rivolta dei boxer cinesi 1900-901, le insurrezioni di Cuba e delle Filippine 97-98 e altri. Spesso mentre il romanziere scriveva, i combattimenti erano ancora in corso e non si sapeva come sarebbero andati a finire. Salgari è stato sempre, questo interessante, dalla parte di coloro che si battono per la libertà del proprio paese. Così nelle stragi delle Filippine prende posizione contro la Spagna a favore della popolazione locale, mentre al contrario fa il tifo per la Spagna, che sostiene i cubani nella lotta contro lo strapotere degli Stati Uniti. Ecco, nel corso delle insurrezioni è facile che nasca uno di quegli amori contrastati, tanto cari all'autore. È raro che ci sia un amore facile o sereno fra i personaggi salgherani, c'è sempre un problema di odio, di razza, di famiglia, e non è mai una cosa che nasca serenamente. Nel corso, ecco, conflitti che impongono drammatiche scelte tra amore per la patria e per una donna o per un uomo, che sono nemici, che fanno versare ai protagonisti lacrime e sangue. Salgari però non si muove soltanto fra avventure contemporanee. Documentandosi in biblioteca e sicuramente visitando più volte il Museo Egizio di Torino, fa rivivere il fascino dell'antico Egitto dei faraoni, e La figlia dei faraoni per me è uno dei romanzi più belli e meglio riusciti. Invece l'altro storico, che si chiama La Cartagine in fiamme, è già meno riuscito, perché è già vicino alla fine, alla sua fine della creatività, cioè a un certo momento non ce la faceva più, e insomma scriveva lo stesso per mestiere, però non c'era più né la fantasia né la inventiva, e non più la comunicativa che aveva agli inizi. Questa impressione mia, poi magari non è vero. Ecco, famose, ecco, L'Egitto dei faraoni. Poi c'è per esempio I pirati algerini nella Sardegna medievale, molto bello anche quello, Le pantere di Algeri si chiama il libro. E poi c'è, cosa c'era ancora di storico? La lotta dei cristiani contro i turchi a Famagusta, molto bello anche quello, che finisce con la famosa battaglia di Lepanto. Ecco, famose soprattutto le sue descrizioni di paesi esotici, come diceva prima la dottoressa, in un'epoca in cui non c'era televisione, non c'era film, non ancora il film, erano agli inizi appena, però non si andava sicuramente a girare nei paesi così. Allora l'unico svago che aveva la gente per immaginare come potevano essere questi paesi erano i giornali quotidiani, ed ecco che Salgari in quel momento lì è entrato proprio giustamente a portare quello che la gente voleva leggere. Ecco, famose le descrizioni di paesi esotici con usi e costumi, flora e fauna, che fanno da scenario alle avventure degli eroi. Le descrizioni che secondo me non sono mai noiose o pedanti, neppure quando hanno un'impostazione didattica o sono dedicate ai bambini delle prime classi che ancora stentano a imparare a leggere. Per questi Salgari ha scritto una serie di raccontini istruttivi su fiori e animali che si leggono ancora oggi con piacere. Ecco, tra gli eroi protagonisti spiccano i combattenti per la libertà dei rispettivi paesi, i vendicatori che vanno alla riconquista di un trono usurpato, un tema molto frequente, poi gli esploratori, i cercatori d'oro o altri tesori nascosti. E stranamente i tesori nascosti quasi sempre portano sfortuna, anche loro lo trovano, lo ricevono e poi fanno in genere una brutta fine, cioè non è che vengano premiati, al contrario. Salvatori di persone smarrite nella giungla o nei mari polari, c'è qualche medico scienziato e alcuni missionari, anche qualche spericolato che affronta imprese rischiose per una sfida sportiva, per l'onore della sua bandiera o per conquistare la mano di una donna. Protagonisti preferiti però sono gli uomini di mare, pirati, corsari, pescatori di balene e mercanti di schiavi. C'è diversi romanzi che parlano del mercato degli schiavi, e direi anche con molta partecipazione da parte dell'autore. Ecco, mare è l'elemento prediletto da Salgari, che si muove a proprio agio tra violente tempeste, romantici tramonti e suggestive fosforescenze. Basta rileggere alcuni passi del Corsaro Nero, che considerato a ragione il suo capolavoro, non a caso nato durante il soggiorno di Genova, per rendersi conto che scrivendo del mare il romanziere Salgari diventa un poeta. Ora c'è una cosa interessante: questo soggiorno a Genova, brevissimo, non so bene, nessuno sa bene perché sia venuto via, perché a Genova Salgari si trovava benissimo, era amato e stimato, aveva un codazzo di ammiratori che lo accompagnavano dappertutto, e non so come mai. L'editore sì, ha cambiato editore, il Benquarat di Firenze gli ha offerto più denaro, ma perché Donat non poteva dargliene di più, ma non ha rotto i rapporti con il genitore genovese, tant'è vero che per lui ha fondato e diretto un giornale che è durato 2 anni, quando già Salgari era ritornato a Torino e veniva a Genova una volta alla settimana per seguire questo settimanale. Quindi non si sa perché mai, forse dicono che la moglie si sentiva sola perché a Torino o dintorni erano venuti i suoi parenti da Verona e lei aveva dei figli piccoli. Salgari ha avuto 4 figli, una femmina e 3 maschi, più un parto gemellare, la moglie che è andato a male, se no sarebbero stati 6. Quindi lei evidentemente, la signora, aveva bisogno del sostegno dei familiari, forse per quello, però non saprei, non c'è una ragione logica, sarebbe ancora da fare indagini per capire perché è venuto via, perché le più belle storie che ha scritto sono proprio nate a Genova e il mare lo ispirava, lui era un uomo di mare. Ecco, qui ancora cosa c'era che volevo dire? Ah sì, io sto quasi concludendo, e se non arriva Roberto a tirare avanti qualcosa. Allora, interesse del pubblico per l'Oriente misterioso, l'abbiamo già detto. Ecco, questo trovava la sua espressione anche nel teatro d'opera, molto amato da Salgari, che alla Nuova Arena all'inizio aveva curato anche la critica della lirica. E c'è un suo personaggio, la prima eroina, cioè la prima creatura che lui ha inventato è una donna e si chiama Taisi, la rosa del Don Gian, che è una piccola butterfly che evidentemente è stata ispirata dalla butterfly del Puccini. La storia è un po' convenzionale, se vogliamo, tragico-romantica, una sposa bambina cocincinese, adultera, fuggita di casa dalla casa coniugale con il suo amante spagnolo, viene ripresa e giustiziata davanti a una folla impazzita. Però al romanziere dispiace che questa sua prima creatura faccia una così brutta fine, quindi ci ripensa e dopo diversi anni riscrive la novella, la riduce, la riporta a romanzo un po' più lungo e conclude con un happy end, salvando gli amanti e facendo morire invece il marito. Strana cosa però, c'è un perdono, cioè la butterfly, la Taisi, chiede perdono al marito e lui glielo accorda e chiede lui a sua volta perdono. Cioè, perdono in Salgari è una cosa molto rara, in genere c'è la vendetta e di quelle crudeli, ma invece qui il perdono ancora c'è e quasi commovente. Ecco, salva gli amanti. Ecco, ama, bisogna dire che Salgari evidentemente ama le sue creature, i suoi personaggi, ama soprattutto le fanciulle alle quali dà i nomi più belli e soprannomi di fiori o di perle. Infatti abbiamo la perla di Lawan, la perla di Manila, i vari fiori. Ecco, e questo è uno dei miei temi preferiti, dei quali ho già scritto e c'è anche un capitolo nel libro. Ecco, adesso vi racconto come è nato questo omaggio a Salgari. È il terzo volumetto che dedico al mio autore preferito e propongo i temi più significativi di quelli che ho trattato in 40 anni di giornalismo. I due precedenti, uno l'ho visto qui stamattina, l'aveva la sorella Vita, si chiama A pranzo con Salgari, purtroppo già esaurito da tempo, mi hanno detto che fa venire appetito e la voglia di provare qualcuna delle ricette del capitano. Però è difficile riproporle adesso, perché dove vado a trovare una lingua di bisonte, una fetta di lamantino o le costolette di babirusa che piacevano a Sandokan? Ecco, però si può trovare altre soluzioni, per esempio la lingua di bue al posto del bisonte potrebbe andare benissimo. Secondo libretto, pubblicato invece con gli amici dell'associazione friulana Emilio Sagari di Udine, è un po' più serio, un po' più impegnativo, una monografia che confronta Emilio Sagari con il tedesco Karl May. Infatti Sagari in Germania è conosciuto come il Karl May italiano. Allora, hanno delle analogie sorprendenti fra di loro, sia nella scelta dei soggetti, sia nell'uso delle fonti e nell'abitudine di descrivere paesi esotici come se li avessero visti davvero e vissute le avventure, con la differenza che May è più vecchio di Sagari di 20 anni e da vecchio ha compiuto un viaggio in India e due in America, restando però profondamente deluso e turbato alla vista di miserie, sporcizia e malattie, mentre sappiamo che Sagari non ha mai lasciato l'Italia. Ecco, restava aperto il dubbio che accennavo prima, che forse almeno il Nilo lo aveva visto. Ecco, io mi sono chiesta spesso come avrebbe reagito Sagari messo a confronto con la realtà di paesi esotici e al limite come mi sarei comportata io stessa se mi fosse capitata l'occasione di un viaggio in terre lontane non ancora violate dal turismo. Ecco, io mi fermerei qua, poi mi resta forse un attimo la conclusione. Sì, ci sono domande? Se posso fare una domanda io? Prego. Non so se ne avete già parlato di come hai conosciuto Sagari. Come l'ho conosciuto? Sì. Ma guarda, come tutti quanti lo abbiamo letto a 11-12 anni di età, no? Solo che gli altri poi lo hanno scartato e io ci sono rimasta attaccata. E mi è venuta subito, sì, questo qui l'avevo segnato per come conclusione, lo anticipo adesso, va benissimo. Ho detto devo farlo conoscere in Germania, devo farlo conoscere in Austria, portarlo fuori in tedesco, senza immaginare lontanamente che era già stato tradotto abbondantemente molto prima che io nascessi, perché le prime traduzioni in tedesco sono contemporanee a Sagari, cioè lui è morto nell'11 e prima dell'11 sono già uscite traduzioni in tedesco, e le prime traduzioni riguardavano le esplorazioni polari. Si vede che c'era un'ondata di interesse, fra cui c'era la stella polare italiana sulla quale viaggiava uno dei duchi d'Aosta, che adesso non so come, non mi ricordo bene come si chiamava. Duca degli Abruzzi, grazie. Ecco. E quindi anche altri paesi mandavano le loro spedizioni, era proprio un'ondata di entusiasmo. E allora, ecco, da lì. Poi negli anni 30 c'era anche una spinta politica che voleva lanciare Sagari in Germania. Editore Carl Sivina di Berlino, che io ho visto il catalogo, aveva più di 30 titoli sagariani tradotti, però stranamente durante la Seconda Guerra Mondiale è stato dimenticato, tant'è vero che io con la mia stupida ingenuità sono andata a cercarmi i nomi dei editori tedeschi alla Camera di Commercio Italo-Germanica, ero a Milano allora, e ho scritto a diversi editori, ho imparato a scrivere a macchina da autodidatta per poter fare questa corrispondenza, e ho imparato, ecco, ho cominciato a tradurre, non sapevo come si dividono le pagine, come si va a capo, ho imparato tutto da me e ho tempestato veramente editori in Austria e in Germania per offrire queste traduzioni. Beh, nel 58, io avevo 20 anni, però le trattative le ho cominciate da minorenne, ho trovato l'editore Karl Lieberreuther di Vienna Heidelberg, quindi Austria e Germania, il quale mi ha pubblicato la traduzione delle figlie dei faraoni, quindi ho fatto salti di gioia da qui fino a Soffitto, ma non ha avuto successo, ne ha stampate credo 5.000 copie e 2.000 sono andate al macero purtroppo, quindi prima la gioia e poi la delusione. Il Salgari in Germania, cioè nel mondo di lingua tedesca, non ha mai avuto fortuna. Non solo, poi ho tradotto altri 6 volumi, dunque ecco, da questo, dal 30 al 58 giù di là, dopo la guerra nessuno più sapeva chi era Salgari. Invece la critica è stata abbastanza favorevole, ha detto che era interessante, che era tradotto bene grazie alla bontà loro, e però non, neanche l'exploit del Sandokan televisivo, che ha avuto un grosso successo anche in Germania, non ha influito, non ha avuto ricadute sulla vendita delle traduzioni. Non solo, c'era un editore che si chiama Wunderkammer, che è un nome bellissimo, della Camera dei Misteri, quindi un nome bene augurante, che ha cominciato a pubblicare Salgari, credo 5 edizioni belle. Ora il testo originale, quello della Mondadori, riveduto e corretto, quindi senza tagli, senza altri pasticci. Eccolo. Scusate, ma sì. È una serie di avventure, insomma. Finisca la frase. Grazie. Ho finito, no, cos'è che stavo dicendo? Ah sì, che non aveva ricadute sulla... Assolutamente no. Purtroppo. Ah sì, l'editore nuovo, che è fallito addirittura su Salgari. Ho le 3 prime copie, uno del Sandokan, il Corsaro Nero, e uno ancora i Pirati della Malesia, rilegato in tela bellino con delle belle illustrazioni. E il testo appunto in originale ritradotto, perché non sono più le mie traduzioni, le mie ormai sono superate, chiaramente che anche la lingua tedesca si è modificata nel corso dei decenni, ma hanno detto che l'editore è fallito. Io lo riferisco così con beneficio di inventario, ma deve essere proprio vero, ecco, tanto per dire. Io ti volevo... diceva Don Emilio prima, magari parlare di Salgari come uomo, del quale io non ho parlato. Io volevo, scusa, non so cosa avete detto fino adesso, mi dispiace moltissimo, non ti ricordo niente, ma io volevo un po' parlare del libro, sinceramente, semmai dopo parliamo anche di Salgari, faccio abbastanza sinteticamente. Come vuoi. Ripeto, mi chiedo scusa ancora una volta, ma ci siamo persi prima, è un'ora e mezza che siamo a Bolzano. Siamo andati là, poi non trovavo il parcheggio, sono andato a Mato per parcheggiare, perché sono già ero qui vicino, ma sono... non importa, lei ormai è fatta così. Allora, la letteratura, scrivono Claudio Vaglio, Giuseppe Bonomi, che sono tra l'altro gli autori anche dell'ultima biografia di Salgari, La macchia dei sogni, pubblicata da Rizzoli qualche anno fa. La letteratura, scrivono appunto nell'introduzione a questo libro di Essa, suscita passioni travolgenti e assolute, e questo è certamente vero, ed è tanto più vero se alla parola letteratura sostituiamo oppure aggiungiamo la parola sagrata, perché i romanzi sagariani, e lo diciamo ancora un'altra volta e una volta per tutte, nonostante tutto quello che si è detto e si è scritto da molti anni, sono letteratura. E Salgari era ben consapevole di essere uno scrittore che appunto faceva letteratura, anche se soprattutto negli anni, non perché lui era vivo, ma soprattutto negli anni appena successivi alla sua morte, molti certamente non l'avevano capito, e da qui nascono molti equivoci e molti granchi, chiamiamoli così, presi dalla critica salgariana nel corso degli anni, ma questo magari è un altro discorso che in cui non è da affrontare adesso. I romanzi sagariani, appunto dicevamo, da ormai oltre un secolo, Salgari è morto nel 1911, continuano a suscitare appunto passioni travolgenti e assolute, ancora oggi, quando uno scrittore che in origine aveva certe ambizioni è definito poi somma e grado per diventare uno scrittore per ragazzi, sembra oggi venga letto non più dai giovani, dai ragazzi, ma venga letto dagli adulti e dagli adulti colti, diciamo. Gli appassionati segariani poi sono sparsi, sono moltissimi, sono sparsi per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Basti dire, faccio due piccolissimi esempi di persone che conosco, perché per una serie di motivi, che a Liegi ci sono due cattedre, all'Università di Liegi ci sono due cattedre di letteratura italiana. Una è tenuta da un professore torinese di origine che si chiama Luciano Curreri, che è un appassionato segariano da sempre e che su Segaria ha scritto tantissimo, ha fatto un mucchio di saggi, di libri, eccetera. E inoltre, per esempio, a New York, il capo dei servizi informatici del comune di New York è un oriundo pugliese che si chiama Donato Pascali e che è un segariano di ferro, come un po' come dice lei, dice lui quando ha dei problemi va a cercare in Segaria le soluzioni dei suoi problemi, ancora adesso che ormai è alle soglie della pensione. E appunto tra i travolti dalla pressione segariana c'è Elsa Muller, che come scrive lei stessa, Emilio Segari la sta accompagnando nel cammino della vita con un amico discreto e fidato, a partire dalla giovinezza, quando lo scoprì, e fino ad oggi, quando è arrivata a chiudere appunto in questo libro il suo amore per lo scrittore veronese. E se vuole, penso che alcune cose avete già detto, è giornalista di Segari, e di Segari si considera una collega, perché Segari nei primi anni della sua vita ha fatto il giornalista professionista, prima alla Nuova Arena e poi all'Arena, quotidiani veronesi, e allora c'era l'Arena a Verona, che ancora adesso è il quotidiano della città. E su Segari ha scritto articoli e saggi, va tradotto in tedesco, e si è identificata nelle sue eroine, come lei stessa dice. E siamo arrivati appunto a questo libro che, come l'autrice vorrebbe fosse una simbolica guida al lettore attraverso mari e giungle e deserti, teatro delle avventure più suggestive dei romanzi segariani. E il libro raccoglie una selezione dei suoi articoli, dei suoi saggi sull'opera e sulla vita dello scrittore, frutto del suo amore per Segari e dei suoi studi, scritto con la passione, diciamo così, e il mestiere del giornalista. E appunto attraverso il mestiere del giornalista costruisce quelli che potremmo chiamare dei reportage, diciamo così, o delle inchieste su Segari stesso e sui suoi personaggi. Il titolo, Omaggio Segari, è forse, diciamo così, un po' banale, un po' scontato, ma non è stato possibile trovare un altro che fosse altrettanto significativo, perché il libro è proprio un omaggio allo scrittore veronese, e più che rivolgersi ai lettori, si rivolge proprio a lui, si apre proprio al caro Emilio. E nelle prime pagine appunto è proprio, diciamo, con affetto, affettuosamente dedicato proprio a Emilio Segari. Il libro è strutturato in una serie di capitoli tematici, ognuno dedicato ad aspetti e a personaggi della narrativa segariana: il giornalismo, lo sport, la fantascienza, anche se la parola fantascienza al tempo di Segari non esisteva, perché la parola fantascienza nasce sulle riviste di fantascienza, appunto, si chiamava i romanzi di Urania e Urania. Ufficialmente la prima volta che parla in italiano tra fantascienza è il 1952, e fantascienza scritto fantascienza col trattino tra fantascienza, poi il trattino nel corso degli anni è scomparso ed è rimasta una parola unica. Appunto, i temi che riguardano i vari capitoli del coso, del libro, come dicevamo, il giornalismo, lo sport, la fantascienza, le lingue, i viaggi, le donne, i medici, le torture, la fede, eccetera. E in ogni capitolo una galleria di personaggi che incarnano quello che è il tema conduttore del capitolo stesso. Ci soffermiamo un poco sul capitolo che credo sia uno dei più significativi per una serie di motivi che non stiamo neanche qui a elencare del libro, quello dedicato alle donne e ai romanzi segariani. Esso è intitolato Fanciulle senza paura e ci presenta una sfilata di donne che compaiono nei romanzi con i loro amori, le loro lotte, le loro passioni, le loro forme opulente, come a Salgari con la scrivere. Leggiamole qualche passo. Proviamo a immaginare, il titolo si chiama appunto Fanciulle senza paura. Proviamo a immaginare di vederle sfilare in passerella, giovanissime, bionde o brune, tutte belle, di una bellezza fresca e naturale, e dotati di una grazia innata, avvolti in scintillanti tessuti di seta o di morbido velluto, oppure nascoste in un severo abbigliamento di taglio maschile, se non addirittura in armature medievali. Il romanziere veronese ha dedicato alle sue donne più tempo e spazio di quanto non abbiano fatto altri scrittori del genere avventuroso. La donna, come del resto in molti film d'avventura, ancora fino agli anni 50 e 60 del secolo appena trascorso, veniva spesso presentata come una stupidella che andava a cacciarsi nei guai per poi essere salvata dagli eroi di turno. Completamente diverso l'approccio di Sacari con l'universo femminile. Nei suoi romanzi non sono poche le donne che, lasciando la tranquillità della loro casa o del loro palazzo, vanno in propria iniziativa ad affrontare rischi per salvare il loro compagno o semplicemente per restargli vicino nel pericolo, oppure, come gli eroi di sesso maschile, per pagare un debito di riconoscenza o per ritrovare l'amato rapito o disperso durante una spedizione. Eleonora Deboli, capitano Tempesta, combatte vestita da uomo a Famagosta per liberare il fidanzato tenuto in ostaggio dai turchi. Marichita affronta senza paura i ghiacci polari del sud per salvare pure lei il fidanzato, salvo poi accorgersi che questi non meritava affatto il suo sacrificio. Tanqiù, il fiore delle perle, si impegna in una sanguinosa guerriglia pur di poter stare accanto all'uomo che ama senza speranza. Bella figura anche quella di Dolores del Castillo, la capitana dello Yucatan, che motivato Yucatan è una nave proprio per che motivata dall'amore di patria arma una nave e arruola un equipaggio per fronteggiare lo strapotere degli Stati Uniti e Maria Fedorovna, che sfida il gelo della tundra siberiana popolata da lumi famelici per salvare il fratello e i suoi compagni accusati di cospirazione e destinati a una colonia penale, o ancora la sovrana del Capo d'Oro, Miss Anna Clarica, che organizza una spedizione al Far West per liberare il padre sequestrato da una banda senza scrupoli dopo essersi messa all'asta per racimolare il riscatto. Meno male che a dare una mano c'è Buffalo Bill, il mitico cavaliere del selvaggio Ovest che Sagari, allora cronista per la Reina di Verona, aveva incontrato in persona. Per concludere, una bella allegoria sulla creazione della donna. A raccontarla è Trevor Knight nel romanzo dei due tigri, che è praticamente l'ultimo romanzo del primo ciclo di Sandokan, diciamo, quando alla fine del romanzo Sandokan uccide su Yodana il terribile capo dei Delta Gangetto. Allora, nei due tigri Trevor Knight racconta che quando Tvastri è una divinità indiana della creazione, creò il mondo, rimase molto perplesso nel creare la donna e dovette pensare a lungo prima di scegliere gli elementi necessari per formarla. Prese le rotondità della luna e la flessuosità del serpente, lo slancio della pianta rampicante e il tremolio della zolla erbosa, il fascio del rosaio, il colore vellutato della rosa e la leggerezza delle foglie, lo sguardo del capriolo e la lievezza folle del raggio di sole, il pianto delle nuvole e l'incostanza del vento, la timidezza della lepre e la vanità del pavone, la dolcezza del miele e la durezza del diamante, la crudeltà della tigre e la freddezza della neve, il cicaleggio della ganza e il tubale della tortorella. Tutte queste caratteristiche sono trovate secondo Sagari. Secondo me è vera, vera genere anche questo. Alla fine del libro, per sottolineare, quale sottolineare appunto l'attualità di Sagari, c'è un'evoluzione della contemporaneità accostando fatti e personaggi che essa ha ricavato dalla cronaca a fatti e personaggi sagariani. E ricordiamo, sto finendo, che essa è autrice anche di un altro libro, non so se ne avete già parlato, sagariana, che è A tavola con Sagari, che ha come sottotitolo Cibo e banchetti nei romanzi sagariani, pubblicato da Perosini a Verona nel 2000, nel quale, oltre a quello che abbiamo detto prima, perché lei è anche un'esperta di gastronomia, scusate, racconta brillantemente quanto appunto dice il sottotitolo, cioè cibo e banchetti che si trovano nei romanzi sagariani, e inoltre dà una sbirciatina a quello che succedeva in casa Sagari, come è intitolato in casa dello scrittore, come è intitolato il primo capitolo. E in appendice, curate da Eugenio Viraldi, che è uno degli insegnanti, dei professori dell'istituto alberghiero che c'è a Verona, c'è la interpretazione di Chievo, ci sono 11 ricette sagariane liberamente ispirate ai romani. Il libro purtroppo, esatto, o per fortuna, è esaurito da molto tempo e l'editore non si decide a farne una copia. Io ne ho una copia in fotocopia, perché la mia copia l'ho prestata a qualcuno che non mi ricordo più chi, che non è più tornata indietro, non bisognerebbe mai captare niente, nessuno, come sempre si dice, e poi invece si cade sempre nel peccato. Esatto. Concludendo, diciamo che chiudendo il libro di Elsa, chiudendo questo omaggio a Sagari, ci rimane dentro di noi un Sagari che è diventato nostro, ma anzi che è di Elsa soprattutto, ma che è fatto diventare nostro attraverso appunto la passione che le mette nel raccontare. Non siamo sicuri, non sappiamo, non siamo certi che il Sagari che ne viene fuori sia davvero quello autentico. Certe affermazioni così molto perentorie forse andrebbero un po' più smussate, un po' più diplomatici, qualche notizia dovrebbe un po' verificata meglio, eccetera. Ma non importa, perché questo non è un libro di filologia o di critica letteraria, ma è appunto un omaggio a Sagari. A quel Sagari Emilio che aspirava a fare della sua vita letteratura, un po' alla D'Annunzio, di cui, come scrive il citato professor Luciano Curelli, è l'alter ego, un alter ego di D'Annunzio di cui è praticamente il costrutto popolare. E Sagari ha cercato per tutta la vita di fare della sua vita letteratura e della letteratura della sua vita, anche se i casi della vita gli hanno impedito sostanzialmente di realizzare questo sogno. In realtà fece la sua vita e fece letteratura parallelamente, senza che le due cose riuscissero a identificarsi, anche se la letteratura appunto fu molta parte della sua vita. E quando non gli fu più possibile di fare letteratura, spezzò la penna materialmente e spezzò anche la sua vita. Ma questo forse riguarda soltanto lui, a noi rimane il Corsaro Nero che nessuno piange. Se non l'hai già detto, l'idea di concentrare tutte queste cose in questo libro. Ma guarda, io volevo dare qualcosa, un contributo o al centenario della morte o al 150enario della nascita di Sagari. Non ce l'ho fatta perché non ho trovato l'editore, però altra ragione è che volevo gli articoli ai quali tenevo di più, non dico i più belli o i più significativi, quelli che a me piacciono di più, che non andassero perduti, come purtroppo succede quasi sempre degli articoli di giornale, ritagli, li metti via poi non li trovi più. L'ho detto, li metto in un libro, naturalmente rielaborandoli, tagliandoli, aggiornandoli, ecco, lasciare qualcosa di duraturo. E un'altra cosa, tu sei nata a Vienna, sì, e sei venuta in Italia in maniera un po' sì, avventurosa, forse in maniera molto sagariana. E come è nata questa, appunto se non l'hai già raccontato, come è nata questa tua passione, questo tuo trasporto, chiamiamolo come guarda, vogliamo, nei confronti di Sagari? Non c'è nessuna ragione spiegabile, è una cosa, non so come dire, ultraterrena. Cioè, come tutti lo abbiamo letto, e dopo un po' chi ha smesso, invece io l'ho tenuto, ho voluto, mi sono data da fare perché volevo farlo conoscere in Germania e in Austria, questo l'avevo già detto prima, senza sapere che era già stato tradotto. Ho imparato a tirare di scherma, perché lui era schermidore. Cos'è che ho fatto ancora? Ben vestivo da tigrotto, come hai visto qua sulle foto, mentre le altre ragazze andavano da principessine, da fata o che so, e io ero Sandokan, insomma, che però avrei preferito essere il Corsaro Nero, solo che i miei genitori non avrebbero mai permesso che andassi in giro vestita di nero, questo era chiaro. Ma guarda, qui avevo cercato di trovare una soluzione, una risposta, ma non c'è. E dicevi prima, scusa, che volevi parlare un attimo quando sono arrivato, che cosa? Dell'uomo Sagari. Sì, io non sono un esperto del luogo sacrale di biografie, anche perché sostengo una cosa, e così ho avuto anche, che bisogna, una volta per tutte, scindere le noi ci interessiamo di sacrali scrittori, leggiamo i suoi romanzi e giudichiamo i suoi romanzi, non ci interessa niente cosa ha fatto, cosa non ha fatto durante la vita. Nessuno viene in mente di dire che Manzoni ha scritto I Promessi Sposi così perché aveva male di aveva le gastrite, insomma, o come ci hanno raccontato per tutta la vita quando andavamo a scuola elementare che il pessimismo sacraliano è dovuto al fatto che era tutto e poco. Ormai, e purtroppo per Sacale c'è molta confusione, si fa ancora molta confusione tra quella che è la sua vita personale e quello che sono i suoi, se ci interessiamo della letteratura, leggiamo i suoi romanzi, per carità, è utile sapere alcune cose, ma non bisogna fare del biografismo, del psicologismo, inserendo nella storia. Cioè, Pozzo ha fatto quel libro sui racconti del capitano. Sangare, oltre agli romanzi, ha scritto una serie, molti, un centinaio forse, alcuni non se ne sono andati, dove si erano andati a finire, di racconti brevi. E in alcuni di questi racconti c'è un ufficiale di marina, un capitano o quello che è, a seconda di situazione, che qualche volta si chiama Sagari come lui stesso. Ma e Felice Pozzo ha raccolto tutti questi racconti in cui c'è il protagonista, il capitano Sagari, citato nel racconto come tale, e li ha fatti raccolti in un libretto che si chiama appunto I Racconti del Capitano. Però non ha senso. Non ha senso perché non è vero che il protagonista di questi racconti sia Sagari persona, cioè è un personaggio che così per sfizio, per non lo so, l'ha chiamato Emilio Sagari, ma si potrebbe chiamare Pinco Pallino qualsiasi altra cosa, anche perché è leggendo i romanzi che sono delle persone diverse, quindi non ha molto senso da un punto di vista così storico, filologico, di fare raccolte di questo genere. Ripeto, bisognerebbe vedere abbastanza, se uno si interessa della biografia, non è perché è un personaggio importante, insomma, soprattutto nella Verona, lui è arrivato a Verona nel 62, 1862, ed è stato a Verona per 30 anni, 31 nel 93 circa, è andato quando era già sposato il padre di una bambina, è andato ad abitare a Torino perché aveva fatto un contratto con l'editore, con gli Spirani, gli editori torinesi, quindi viene via da Verona e va ad abitare ma nella Verona di quei primi anni era un personaggio conosciuto perché ne combinava un po' di tutti i colori e a partire da quel nominato prima l'istituto per via del Chievo adesso a parte le glorie calcistiche del Chievo che ha vinto la domenica è una frazione di Verona che adesso è praticamente inglobata nella città, ma allora era una terra campagna del posto dove si è battuto in duello con il suo collega Biasioli, il quale metteva in dubbio del fatto che lui avesse navigato e fosse capitano di nave, eccetera. Ci sono in piazza, si sono un po' accapigliati in Piazza Bra. Piazza Bra è la piazza principale di Verona dove c'è l'arena, lì c'era un caffè, il caffè Dante, che adesso è cioè ancora non si chiama più caffè Dante, si chiama, non mi ricordo più, è di Giovanni Nanna, quello di Tortellini, che ne ha fatto questo anno, comunque c'è ancora sugli Stone, si chiama gli Stone a Verona, quel largo marciapiede in cui Veronese e domenica mattina fanno le cosiddette vasche, vanno avanti e indietro. E lì in questo qua, siccome prima si erano punzecchiati sui giornali dicendo sei un giornalista cucco, non capisci niente, sei piccolo, sei tutte quelle cose lì, sei un bugiardo, si sono incontrati una sera in questo caffè Dante e lì si sono prima un po' discusso e poi si sono accapigliati, si sono picchiati, ognuno negando di essere stato picchiato dall'altro, gli ho dato un pugno in faccia, no, non è vero, gli ho dato un bel, gli ho dato gli occhiali, tutte queste cose si sanno perché il giorno dopo il Sagari scriveva sull'Arena e il suo collega scriveva sull'Adige, che allora a Verona, tanto per dire che in quegli anni c'erano 5 quotidiani in città a Verona, c'era l'Arena, la Nuova Arena, l'Adige, l'Arena Nuova Arena, i giornali filo-cooperativi crispini, diciamo così, e l'Adige era socialisteggiante, c'era il Corriere di Verona che era che era clericale. E il giorno dopo si raccontavano ieri sera con il contratto Sregali, ieri sera raccontando Biagioni, alla fine insomma si sfidano a duello e si battono al Chievo. Sregali ferisce leggermente il suo avversario, però i due gli hanno proibiti, fa un processo, viene condannato a 6 giorni di confino a Peschiera e una multa di non mi ricordo più che cosa. Tanto per dire, ma dopo ne fanno di tutti i colori, fanno le passeggiate, vanno in giro e fanno gli scherzi. Cioè, il giovane Sregali era a Verona, era un personaggio noto, conosciuto, insomma. A Torino si mette un po' più tranquillo, allora comincia a dare problemi. La famiglia nasce prima che sarà ragazzi. Poi nascono altri maschi, l'ultimo nel 1900, e purtroppo tutti finiti in maniera tragica. La Fatima, si chiama la ragazza, muore a 17 anni, muore di tisi. Gli altri, i tre maschi, due si suicidano e uno muore con un incidente di moto contro un tram, mi pare. Se c'è qualcosa, non lo so. Ma io devo dire che non sono sagariano di ferro come voi, perciò non posso parlare, però sono molto attratto invece dalla vita di quest'uomo, perché è essa stessa un dramma, è un romanzo d'appendice. Sì, certo. Scusa, da dire che anche il padre di Sagari si è suicidato. E anche uno zio paterno. E anche uno zio fratello di suo papà. In quello stesso palazzo, e dallo stesso balcone. Probabilmente c'era Omar si è ucciso è l'ultimo che è morto nel 63-64, la Fatima è nata nel 92-93, gli altri due qualche anno dopo, Nadir e quell'altro come si chiamava? Romero, Nadir e Romero qualche anno dopo, lì vicini, il più giovane è nato nel 1900, si chiama Omar, sì. E si è ucciso nel 62-63, adesso non buttando dal balcone, perdono. I due primi erano stati come si dice, avevano fatto la prima guerra mondiale, tutti e due ufficiali, tutti e due decorati, molto coraggiosi, eccetera. E uno si è suicidato, non mi ricordo perché, e l'altro morto. Ma era una scena di gelosia. Sì, forse sì, c'era una storia. C'era la moglie col bambino, col piccolo, ah, sì, il mio braccio. C'è una storia, sì. Che... Poi volevo uccidere la cognata e la moglie e il bambino. Sì, hanno un po' una tara. Un suo pronipote, non molti anni fa a Torino, ha ammazzato una vecchietta, non so. A sciabolate. Sì. La sciabolata, con una vecchia sciabola che c'era in casa, e ha detto che lei era antipatica, voleva, e poi ha fatto finta di tagliarsi le vene dai polsi, e niente, si chiamava Romero, era figlio di Romero, e non credo che abbia neanche fatto prigione, no? Era assolutamente sì, incapace di intendere. Ma esistono ancora i reti di questo? Sì, questo ci sono i figli di Romero. Sì. Una è morta anziana qualche anno fa, giovane. E poi ci deve essere questo Romero che si chiama Romero, che è il pazzo, quello che ha ucciso la persona. E abitano a Verona, non proprio a Verona, ma a Valpolicella, a Negrar. Lì ci sono il ramo che ha detto i figli, cioè i discendenti del fratello del nonno, che si chiamano Sregali e fanno vino. Sì. E hanno fatto vino, sì, fanno, tra l'altro fanno vino negli, hanno, i Sregali erano gli antenati, il nonno di Emilio che va ad abitare a Verona in città. Prima abitavano tra Negrare e Valpolicella, avevano case e campi, erano gente benestante, anche dopo lui si è lamentato per tutta la vita, anche lì cosa ci sarebbe da dire, si è lamentato per tutta la vita di problemi economici, ma i suoi di casa sua erano gente benestante, lo hanno mantenuto fino a, a quasi 30 anni che non facendo niente, si faceva il giornalista, poi provato a fare il commerciante di biciclette, andava in giro, sì, lo manteneva suo padre, quindi, ma aveva, casa sua avevano gente abbastanza benestante, insomma. E dopo lui si lamenta per tutta la vita di, e anche nelle lettere che ha lasciato del suicidio, di avere problemi economici, probabilmente li aveva, ma è molto probabile, lo dice anche Elsa, che avesse forse dei cattivi amministratori, e poi c'erano forse questi parenti della moglie che abitavano a Torino, che probabilmente non so, si facevano da fedelo, ci baciavano su quello. Tanto per fare un piccolissimo esempio, lui verso il 2000, quando va via da Donat e va con l'editore Bempora, prendeva circa 8.000 lire all'anno. E più poi aveva i diritti sulle traduzioni, su quelle robe lì. Prendere 8.000 lire all'anno vuol dire che in quegli anni un maestro elementare deve anche mettere, io sono figlio di una maestra elementare, e quindi non ho mai avuto grandi stipendi, ma un maestro elementare in quegli anni prendeva 1.200 lire all'anno, quindi tra 1.200 a 8.000, per quanto possa stata la ricchezza, per assaggio il benessere tranquillo, insomma. Dove gli facesse andare è uno dei misteri della vita segariana, perché è impossibile che, non so, poi era un cattivissimo amministratore, appunto, li sprecava. Comunque non è vero, in fondo, che non è vero che gli editori lo sfruttassero, gli editori lo pagavano quello che lui chiedeva, e ed era pagato, ma cercava di fare una serie di ricerche negli archivi della casa che c'è Bempora a Firenze, e in quegli anni nelle scuderie, diciamo, di Bempora c'era Luigi Capuana, per dire, Sergari veniva pagato di più di Capuana, e Capuana era in Italia, Sergari era un nome, ma intellettuale, molto verismo, cioè, e comunque i romanzi sergariani erano pagati di più di quelli di Capuana. Vabbè, se non c'è, togliamo la seduta.